Punto. Punto e a capo. Una settimana di attualità di Gigi Donelli. Cari ascoltatori, un saluto da Gigi Donelli, da Roberto Scaltritti in regia. Questa settimana cominciamo da una sentenza. Non è nostra abitudine, ma in questo caso siamo di fronte a un momento probabilmente di transizione per una città, ma forse per un paese intero. Sentiamo. In nome del popolo italiano, il Tribunale di Torino, visti gli articoli 533 e 535 Codice del Procedura Penale, dichiara De Cartier, De Marchen, Jean-Louis e Schmidain e Stefan colpevoli di reati loro contestati in Cavagnolo e Casale Monferrato, e unificati tali reati sotto il vincolo della continuazione, li condanna alla pena di anni 16 di reclusione ciascuno, nonché entrambi al pagamento delle spese processuali. Dichiara insomma che nessuno deve morire del proprio lavoro. Allora sentiamo subito il procuratore aggiunto di Torino, Raffaele Guariniello, che ha seguito per anni questa indagine. Beh, ridare una speranza laddove non si è mai riusciti a fare un processo, ridare la speranza di poter fare un processo nel quale, beh, certo, non si ridà la vita a nessuno, però si riesca a garantire un giudizio di responsabilità per chi non abbia eventualmente operato in modo corretto e si riesca a dare un risarcimento a chi lo merita. E questo accadeva lunedì 13 febbraio, quindi lunedì scorso, a Casale Monferrato. Nelle stesse ore la Grecia in attesa, la Grecia coinvolta nelle piazze, nelle proteste di una settimana che, insomma, già lo ricordiamo, è davvero ricca di eventi. Parliamo di Olimpiadi, o meglio di non Olimpiadi, di Roma 2020, dell'attività del governo, naturalmente delle decisioni rimandate a lunedì prossimo sulla Grecia, ma anche a tutta una serie di fatti che raccontano la settimana che ora andiamo a lasciarci alle spalle. Punto e a capo. Diversi paesi europei non ci vogliono più. Così il ministro delle finanze greco, Evangelos Venizelos, parla a mercoledì. Questo era mercoledì mattina, dopo un San Valentino che di fatto ad Atene è stato sommerso dagli scontri, dalla violenza, dalla tensione in città. Insomma, una grande crisi economica che non migliora certo anche gli atteggiamenti delle persone in Grecia, e non solo la povertà, la minaccia di una possibile estensione, il contagio è una parola come dire molto ricorrente in questi tempi. Allora magari prendiamo le distanze che persino il presidente della Repubblica Italiana Napolitano aveva di fatto preso, magari involontariamente, l'11 febbraio scorso. Era a Helsinki e, per rispondere quasi di getto alla domanda sulla stabilità italiana fatta da un giornalista finlandese, lui ha risposto: noi non siamo la Grecia. Ecco, la Grecia come paura, come rappresentazione delle paure europee, delle paure individuali. A noi italiani spetta un dovere di solidarietà mediterranea, se davvero vogliamo essere, senza falsa modestia, una potenza mediterranea. Questo è un punto su cui ragionare. Ma intanto ritorniamo alla cronaca. Sergio Nava, mercoledì, sente da Atene Luca Degliolanos, giornalista, che racconta il cambiamento, la percezione del salto di qualità negli scontri del giorno precedente. Quell'elemento nuovo rispetto agli scontri che ho percepito anch'io era che effettivamente sì, agli scontri hanno dato inizio i soliti black bloc, che sono sempre gli stessi, sempre le solite centinaia di anarchici che approfittano di ogni occasione per dare corso a violenze, però questa volta c'è stato un sostegno attivo da parte anche degli altri manifestanti pacifici. Quindi c'è una rabbia, c'è una disperazione, c'è una forte, come si può dire, risentimento nei confronti del mondo politico per essere il primo responsabile per aver ridotto il paese in queste condizioni. Le responsabilità sono storicamente e anche nella percezione dell'opinione pubblica, sono equamente divise in tutti e due i maggiori partiti che hanno governato negli ultimi 10 anni, cioè i socialisti è vero che sono ridotti all'8%, sono l'ultimo partito parlamentare se si fossero le elezioni domani mattina, ma è vero anche che il primo partito, secondo i sondaggi, cioè il centrodestra, la Nuova Democrazia, ha perso gran parte del suo elettorato. Tra solidarietà e all'estremo opposto addirittura ricatto. Questa è un'ipotesi che emerge all'inizio della settimana quando si parla di presunte pressioni di Germania e Francia per vendere armi, sottomarini, carri armati, fregate, elicotteri al governo di Atene in cambio degli aiuti europei. Pressioni denunciate nei giorni precedenti dalla stampa tedesca, che ha definito cinico e immorale il comportamento della cancelliera Angela Merkel. Un quadro verosimile, commenta a Radio 24 il generale Leonardo Tricarico, ex capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, intervistato da Maria Luisa Pezzali. È verosimile, questo scenario, questo mondo del procurement militare, oggi più di ieri direi stanno prevalendo valutazioni di carattere politico più che la bontà del prodotto vero e proprio. Ecco, questo è un discorso sicuramente da seguire con grande attenzione, soprattutto per chi poi rappresenta l'interesse nazionale, in questo caso parlo dell'Italia. Bisogna che l'interesse nazionale a sostegno della nostra industria venga fatto valere, non per ricattare qualcuno o strangolarlo in un momento del bisogno, come probabilmente sta succedendo per la Grecia, ma perché le nostre ragioni vengano fatte valere. La spesa bellica della Grecia raggiungerà nel 2012 i 7 miliardi di euro, quasi il 20% in più rispetto al 2011, il 3% del PIL, che è una percentuale altissima per un paese come la Grecia. Oltre il triplo dell'Italia, direi, perché noi siamo persistentemente al di sotto dell'1%, quindi qui parliamo del 3%, effettivamente è abnorme. C'è da dire che sullo sfondo della politica greca c'è sempre questa questione della litigiosità con la Turchia, che al momento direi ormai è da accantonare, le sfide sono altre. E intanto l'Europa, la Grecia ovviamente, attende l'esito della riunione, della teleconferenza dell'Eurogruppo, che ci viene raccontata dall'inviato del Sole 24 Ore, Vittorio Darold. La riunione per teleconferenza dell'Eurogruppo è finita senza prendere decisioni sulla Grecia. Se ne riparlerà forse lunedì. Intanto, secondo alcune indiscrezioni, il piano di aiuti potrebbe slittare a dopo le elezioni greche di aprile, perché i ministri delle finanze dell'Eurogruppo non sarebbero soddisfatti delle promesse fatte da Atene, sebbene i due leader dei maggiori partiti abbiano firmato un impegno a proseguire le misure di risanamento. A preoccupare sono le condizioni che il conservatore Antonis Samaras, prossimo premier secondo i sondaggi, ha messo nella lettera in cui rivendica il diritto di rinegoziare le misure di austerità. Una condizione che a Bruxelles non va proprio bene. Il braccio di ferro continua mentre si avvicina sempre di più il rischio di un fallimento della Grecia. Vittorio Darold, Radio 24, Sole 24 Ore, Atene. Se ne riparla dunque lunedì, e prima di proseguire ancora con temi strettamente europei, vorrei invece legarmi al discorso degli armamenti per ricordare che in questa settimana il governo ha preso anche posizione intorno alla vicenda dei 130 F-35 Lockheed Martin ordinati per le forze armate italiane, ormai alcuni anni fa, ovviamente da precedenti governi. Una questione controversa con, da un lato, l'acquisto della macchina, dell'armamento, dall'altro una questione di produzione industriale, perché in questo caso si tratta di un aereo che viene costruito in parte, verrà costruito in parte proprio sul nostro territorio. Allora, su questo tema direi di sentire un breve passaggio dell'intervento al Parlamento del Ministro della Difesa Di Paola. L'esame fatto a livello tecnico ed operativo è anche mio. Porta a ritenere come perseguibile da un punto di vista operativo e di sostenibilità un obiettivo programmatico dell'ordine dei 90 velivoli, con una riduzione cioè di circa 40, che è pari a un terzo del programma. Una riduzione importante che tuttavia salvaguarda anche la realtà industriale e che quindi rappresenta una significativa riduzione coerente con l'esigenza di oculata revisione della spesa. Insomma, secondo il ministro della Difesa, l'ammiraglio Di Paola, è una decisione che possiamo senz'altro definire all'insegna dello stretto pragmatismo. Il caccia multiruolo della Lockheed Martin resta nei piani della difesa e dunque dell'industria. In Italia, appunto, lo ribadisco, è in allestimento una linea di costruzione e assemblaggio che sarà responsabile di fatto per la produzione di buona parte degli F-35 destinati all'Europa. Bruxelles e Strasburgo, e proprio sul Reno, sulla sponda francese, in quella che di fatto è stata la prima capitale dell'Unione, a Strasburgo parla in settimana Mario Monti. Sentiamolo nel servizio di Roberta Pellegatta. Mario Monti convince l'Europarlamento a Strasburgo con un discorso dalla forte carica europeista interrotto più volte dagli applausi. Stiamo togliendo, spiega il Premier, il nostro paese dalla zona d'ombra in cui è stato messo come fonte di contagio. Sarà un'Italia che vorrà contribuire sempre di più a giocare il ruolo che spetta a una delle più grandi economie dell'Eurozona. E segnala poi Mario Monti il rischio che l'euro diventi, in una fase come questa, un fattore disgregante. Si deve recuperare lo spirito unitario. In Europa, sottolinea il Premier, non ci sono né buoni né cattivi. La crisi dell'Eurozona ha diviso gli europei in stati centrali e stati periferici. Tutte queste classificazioni sono da rifiutare decisamente. Monti ribadisce il suo appoggio agli eurobond come strumento di maggiore integrazione dei mercati finanziari, sì anche al patto di bilancio, ma solo con un'adeguata disciplina economica. Benissimo avere dedicato tanta attenzione all'unione monetaria e alla disciplina di bilancio che deve accompagnarla, malissimo non avere dedicato altrettanta attenzione all'unione economica. Chiude Mario Monti parlando in inglese. Solo una cultura superficiale e insulare, dice, può ingenuamente credere che integrazione significhi superstato. Chiaro il riferimento diretto alla posizione euroscettica della Gran Bretagna. Una conclusione, quella di Monti, salutata dagli europarlamentari con una standing ovation di mezzo minuto. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Punto e a capo. Ma sei più emozionata quando vai a fare le gare o qui sul palco di Sanremo? Beh, devo dire qui, perché io sono abituata ad avere tanta acqua, poca gente, a sentire poco, qui invece è un po' diverso. Però non, dai, non sei intimidita tu, no? Sei una che ha della grinta, no? Sì, beh, un po' timida lo sono veramente, però la grinta c'è, non lo nascondo. Senti, quest'estate ci saranno le Olimpiadi, tu ti sei allenata, anche oggi? Sì, stamattina. Ti alleni tutti i giorni, anche stamattina? Eh sì, poi ho preso l'aereo e sono venuta da te. Sono venuta da te, dice Federica Pellegrini, fortissima campionessa del nuoto italiano, che ovviamente, l'avrete riconosciuto ovviamente, Gianni Morandi, una voce che è difficile davvero confondere. A Sanremo, dunque, parlando di giochi olimpici, quelli di Londra, dove la Pellegrini ha, come dire, speranza legittima di arricchire ulteriormente quella che è una grande carriera già oggi, ma naturalmente ci dà lo spunto per anticipare il tema di Sanremo che affrontiamo più tardi, ma per parlare di giochi olimpici. Questa è stata anche la settimana di una decisione per molti versi insolita. L'esito è che il 16 febbraio, quindi giovedì, il Comitato Olimpico Internazionale ha ufficializzato le richieste di candidatura ad organizzare le Olimpiadi estive 2020 presentate da Doha, Madrid,

per fare luce sulla dinamica della morte di due pescatori indiani scambiati per pirati da uomini della Marina italiana imbarcati sulla nave, lo riferisce il quotidiano indiano The Times of India. Secondo quanto riferito nei giorni scorsi dalla Marina militare italiana, la presenza dei fucilieri del battaglione San Marco ha dissuaso cinque predoni del mare che, mercoledì scorso intorno alle 12.30 italiano a bordo di un peschereccio, hanno tentato l'arrembaggio alla Enrica Lexi. Insomma, una vicenda ancora da chiarire. Ancora, e questa volta ritorniamo di fatto negli Stati Uniti, ma nella sede internazionale per eccellenza, con 137 voti a favore, 12 contrari, 17 astenuti, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato una risoluzione che condanna la repressione messa in atto dal regime di Bashar al-Assad in Siria. Al servizio. Una maggioranza schiacciante, quella che ha approvato la risoluzione di condanna della repressione in atto in Siria, costata la vita già a migliaia di persone. I sì sono stati 118, 12 voti contrari, 17 gli astenuti. Un testo che non ha potere vincolante e che tuttavia ha un grande valore simbolico e di pressione politica sul governo di Damasco. Per il segretario generale Ban Ki-moon si è indicata una via per la risoluzione della crisi che possa garantire un futuro di pace e di democrazia per tutti i cittadini. Russia e Cina, dopo aver bloccato per due volte con l'uso del veto l'azione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, hanno votato anche contro il testo presentato dall'Egitto in rappresentanza dei paesi arabi. Intanto le violenze continuano. Gli attivisti parlano di un nuovo bombardamento sulla città di Homs, 4 razzi al minuto, una delle offensive più pesanti degli ultimi giorni. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. A tous de DDO, attention pour le décompte final. 10, 9, 8, 7. Da New York ci spostiamo, almeno idealmente, a Kourou. Questo è il conto alla rovescia del nuovo razzo europeo Vega, che lunedì, erano le 11 in Italia, ha aperto una nuova fase della storia industriale aerospaziale europea. Vega è il nuovo lanciatore appunto dell'Agenzia Spaziale, ma va sottolineato è anche un lanciatore che è stato costruito almeno per il 60% in Italia, in gran parte negli stabilimenti Avio di Colleferro. Insomma, una notizia, sicuramente una buona notizia per l'Europa, che finanzia collettivamente questo tipo di progetti che richiedono anni di lavoro, che hanno richiesto 700 milioni di euro di investimento. Un progetto europeo che lunedì alle 11 di fatto ha avuto il suo battesimo in maniera impeccabile. Punto e a capo. Torniamo in Italia e torniamo a Focus Economia, dove in una settimana che ha visto tra l'altro un'ondata di abbassamenti di rating, che per la prima volta però dopo tanto tempo di fatto quest'ondata non ha avuto ripercussioni dirette sui listini. Sebastiano Barisoni ne ha parlato con Franco Bruni, docente della Bocconi. Io penso che nel caso dei sovereign ratings, cioè del rating che riguardano diciamo la probabilità di insolvenza dei governi, le agenzie di rating non abbiano nessuna professionalità specifica da offrirci. Il loro mestiere è quello di giudicare diciamo la bontà di emissioni di titoli di imprese, di banche che sono complicati, soggetti privati, sì. Per cui occorre raccogliere delle informazioni in modo sistematico, cosa che loro possono fare con la loro professionalità, la loro esperienza, la loro capacità, incrociando informazioni che arrivano da diverse. Ma sul fatto che sulla differenza di probabilità di fallimento dell'Italia dalla Francia o dell'Italia dalla Germania non hanno assolutamente nulla da offrire al mercato, che il mercato non sia già per conto suo capace di intuire o capire. Quindi dopodiché il mercato non ci capisce niente neanche lui, però loro non hanno nessun vantaggio, quindi io arriverei addirittura a proibirli certi rating, perché soprattutto in certe fasi sono pericolosi. Sì, a me proibire non piace, cioè, che uno faccia quello che vuole, però devo capire appunto se uno giudica un privato e ha informazioni in più, dice la società X secondo me prospettive negative, abbiamo fatto le nostre analisi, ma sul debito di un paese, sentirsi dire, c'è l'incertezza legata alla situazione europea, però le riforme e incertezze sulle riforme in atto, incertezze sulle previsioni economiche, però c'è la fragile fiducia dei mercati, però poi l'Italia ha un'incertezza tutta sua sulle prospettive economiche, però, e anche sui conti pubblici, quindi c'è un rischio significativo che il governo italiano non riesca a centrare gli obiettivi di risanamento a causa della marcata debolezza strutturale dell'economia del paese. Ma non si può sentire una cosa del genere, Bruni, ce lo sappiamo tutti. Assolutamente. Il primo suo studente di economia che legge un po' i giornali riesce a dire le stesse cose e non abbassa i reti. Questo lo dice, oltretutto loro arrivano in ritardo, quindi sono sempre fuori fase e diventano prociclici. E intanto un'ultima dal mondo del rating del 16 febbraio, giovedì, ci informa che Moody's ha abbassato il rating della regione toscana, che passa da A2 ad A3. E la notizia viene data in una nota dall'assessore toscano al bilancio Riccardo Nencini, che dice: è una decisione che non ha nulla a che fare con la situazione economica della Toscana e con il bilancio della regione, ma è il riflesso inevitabile del declassamento della Repubblica Italiana. Insomma, prepariamoci ormai al rating individuale, magari prêt-à-porter. Punto e a capo. La politica italiana questa settimana è stata anche la sconfitta del candidato PD alle primarie di Genova. Pierluigi Bersani ha ammesso che la vicenda ha provocato tensioni e ammaccature. Marta Vincenzi, sindaco di Genova, sconfitta nelle primarie da Marco Dori a 24 mattina, era martedì. E questo è il mio crucio. Il PD deve capire cosa vuol fare grande. Io ho fatto un piano urbanistico che ho adottato e capito, questi altri candidati intervengono contro un piano urbanistico che è stato adottato con i voti anche del Partito Democratico, della maggioranza in Consiglio Comunale. Ho fatto la scelta di sbloccare la città impegnandomi sull'infrastruttura, perché Genova, se non si sblocca, se non ha un nodo di rete, muore. Il candidato che ha vinto ha detto che lui non le vuol fare quell'infrastruttura. Ma secondo è assolutamente legittimo. Ma dove sta il PD? Che farà Marta Vincenzi adesso? Il sindaco non... continua a fare il sindaco quando non ci sono le elezioni vere. E anche questo però è un problema, perché io sono assolutamente d'accordo che non è più possibile fare a meno dello strumento delle primarie, francamente, poiché i sindaci stanno al massimo due mandati, si deve dare la possibilità di, diciamo, avere un respiro di due mandati, perché questo la legge dice. Punto e a capo. Ultimi minuti del nostro appuntamento settimanale con Punto e a capo. Roberto Scaltritti in regia, Gigi Donnelli al microfono. Ripartiamo dalla politica e parliamo di riforme. Una in particolare è quello, diciamo, complessa sull'approccio complessivo alla macchina della politica, in particolare al numero dei parlamentari. In settimana ci sono stati lavori, incontri, una disponibilità di massima condivisa dai principali partiti, ma naturalmente continuano invece ad affrontare con e davvero lì ci sono tutta una serie di nodi molto complessi da sciogliere, quello che riguardano vitalizi, stipendi e insomma il vantaggio, il guadagno di essere politico in termini estremamente pratici. Alessandro Milan questa settimana ne ha parlato tra l'altro con Niccolò Cristaldi, che Niccolò Cristaldi, detto Nicola, è un politico italiano ma è stato presidente dell'Assemblea regionale siciliana. Sentiamo, perché è un passaggio interessante di questa settimana nel racconto di Radio 24. Ci ha molto colpito leggere la sua dichiarazione: guadagno anche poco per quello che faccio. La conferma? Certo che la confermo, perché io credo che il vitalizio sia proporzionato a quello che ho versato in vita mia. Non è che il vitalizio mi viene regalato, il vitalizio è in rapporto ai contributi che ho versato, sono soldi miei che ho versato, sì. E quindi naturalmente riprendo i soldi in parte che ho versato. Però io ho fatto un rapido calcolo, siamo sui 9.000 euro al mese. Penso che sia poco rispetto a quello che ho versato. Lei deve tenere conto di quanto ho versato. se lei mi garantisce che vivrò 152 anni potremo cominciare a discutere, ma i soldi che ho versato li potrò riprendere in 152 anni. Sì, ma questo perché gli stipendi dei parlamentari nazionali o anche deputati regionali sono scandalosi, ecco, questo perché è un'altra, ha versato tanto per questo. Guardi, questa è un'altra storia, con questa logica che anche lei porta avanti facendo il suo mestiere, finirete con l'abbassare il livello della qualità del Parlamento. Questo dunque il rischio, abbassare il livello della qualità del Parlamento, secondo Nicola Cristaldi. Cambiamo pagina e andiamo avanti per parlare invece del decreto liberalizzazioni che prescrive tra l'altro l'accentramento delle tesorerie comunali. Roberto Maroni, già ovviamente ministro degli interni, deputato della Lega, a Radio 24 alle 9 del mattino con Oscar Giannino, dice: chiunque deve ribellarsi, è un principio scritto nella Costituzione materiale del nostro paese. Sentiamolo. Però io mi auguro davvero che ci sia una presa di posizione forte da parte dell'ANCI dei comuni. Disobbedienza civile, va bene, ci sono forme che si possono attuare senza costringere i carabinieri a venire ad arrestare i sindaci, non succederà naturalmente, ma per forzare un po', perché è giusto che lo facciano? Perché, come giustamente diceva lei, questi non sono soldi del governo, il governo se li prende con una legge, e temo che la prossima sia, potrebbe essere, qualche creativo a Roma potrebbe pensarlo, i soldi dei privati sui conti correnti bancari. Che differenza c'è? Questi sono soldi dei comuni, sui conti dei comuni la prossima sarà i soldi dei privati cittadini o delle imprese depositati in banca. È un prestito che verrà restituito, certamente, però temo che possa essere questo il prossimo passo, e allora qui occorre una risposta forte. Vede, non è una questione politica, non è una questione di Lega o di altre, è una questione istituzionale, costituzionale, che lede un principio sacrosanto, cioè l'autonomia dei comuni. L'Italia, lo scrisse anche Montanelli in un famoso libro, è fondata sui comuni, qui sta il principio di democrazia. Già abbiamo un governo che nessuno ha eletto, se poi questo governo di professori e di banchieri si permette di cancellare di colpo i principi di autonomia e la storia del nostro paese fondata appunto sui liberi comuni, io credo che chiunque debba ribellarsi. Non è una questione di sostegno al governo Monti, ma ci sono dei principi che non possono essere cancellati per decreto, e questo è un principio scritto nella Costituzione materiale del nostro paese. Punto e a capo. Il graffio di Dario Ceccarelli. Celentano alza ulteriormente il tiro contro i vertici della Chiesa. Gesù Cristo si crede un padre eterno, ma io in via Gluck non l'ho mai visto. E no, e andiamo avanti così, chissà come si farà. Meglio la musica che le parole, commenta con una battuta il consigliere Rai Antonio Verro la vicenda che il nostro Dario Ceccarelli ha riassunto in pochissime righe, ma direi tutto sommato cogliendo l'essenza della vicenda. Dunque, Antonio Verro parla nell'appuntamento delle 9 del mattino con Oscar Giannino, ieri mattina, di fatto, venerdì mattina, poco dopo le 9, sentiamolo. Marano è Marano, è un professionista stimato da tutti, eccetera, eccetera, ma escludo che Marano voglia, possa e debba fare una cosa di questo genere. Celentano ha tutto il diritto di ritornare sul palco e fare il suo spettacolo, eccetera. Veda, io sono convinto che Sanremo, quest'anno senz'altro, ma a mio modo di vedere anche negli anni scorsi, ha avuto un vuoto assoluto, cioè l'assenza della RAI. Purtroppo la RAI ha delegato a professionisti esterni la gestione del Festival di Sanremo, abdicando al proprio ruolo di guida e di responsabilità, ma responsabilità non soltanto editoriale, gestionale, operativa. L'altro ieri, adesso non so dirle ieri, ma sono avvenuti tutta una serie di come chiamarli, incidenti tecnici, l'audio che non funzionava, il televoto, eccetera, che sono proprio figlie dell'assenza della RAI nella gestione quotidiana, nella preparazione minuto per minuto della manifestazione. Insomma. Ecco, questo è il compito di Sanremo. Detto questo, non c'è dubbio che io auspico che possa esercitare anche un ruolo, come dire, editoriale. Cioè, adesso stiamo parlando di Celentano, ma io posso dire che il prologo della prima serata di Luca e Paolo, infarcita di 15 parolacce nel giro di pochi minuti, e francamente a me non è piaciuto. Cioè, io non credo che il servizio pubblico debba alle 9:15 di sera esprimersi in questo modo di fronte a milioni di cittadini. Antonio Verro, dunque, consigliere Rai, era ospite, era ospite ieri mattina di Alessandro Milan, avrete sentito dalle voci, e con lui di fatto arriviamo alla conclusione del nostro appuntamento settimanale. Questa settimana non c'è con noi Marta Cagnola perché è a Sanremo, l'avrete sentita, la sentite in queste ore, si starà preparando proprio come cantanti alla grande soirée finale. Naturalmente il racconto di questa grande kermesse, che è canzone senz'altro, ma costume, economia, insomma comportamenti sociali, e noi come questo, in questa chiave la raccontiamo e partecipiamo sempre con grande interesse. Quindi il racconto continua, qui invece abbiamo concluso. Tra pochi minuti, dopo GR24, il consueto appuntamento con l'Europa condotto da Federico Taddia. Per adesso, da Roberto Scaltritti in regia, da Gigi Donelli in conduzione, un saluto a tutti voi, l'augurio di un ottimo fine settimana. A presto.